Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Una donna su due di età fra i 14 e i 65 anni ha subito un ricatto o una molestia. Le più frequenti sono quelle verbali, seguite dai pedinamenti, dall'esibizionismo e dalla molestia fisica vera e propria. In linea col mediocre istinto di prendersela con le più deboli, le più vessate risultano essere le lavoratrici più giovani, di età fra i 14 e i 24 anni, e la zona dove il fenomeno si presenta più diffusamente è il nord-ovest, seguito dal nord-est. Le regioni al vertice della triste classifica sono il Piemonte, la Lombardia, l'Emilia-Romagna e la Liguria. L'indagine dell'Istituto. Quanto avete letto e sentito parlare di molestie in questi ultimi giorni, in queste ultime ore? Improvvisamente sembrano rovesciati tutti i concetti su cui obtorto collo, a torto a ragione, con grande impegno di civilizzazione, tutti noi uomini c'eravamo faticosamente, ma in piena convinzione, adeguati. Improvvisamente sembra diventato qualcosa di variabile, di non oggettivo, di interpretabile anche il dato di cosa sia realmente la violenza su una donna. E visto che è facile parlare di violenza, come ho detto prima alla collega del giornale radio, qui lo ripeto, parlando del sedere altrui, vorrei che questa mattina di violenza ne parlassero con me le persone che l'hanno subita. Cosa intendo per violenza, cosa intendo per molestia? Beh, è uno spettro abbastanza ampio, devo dire. Le molestie sessuali sono tutti comportamenti di carattere sessuale non desiderati, tutte le attenzioni non desiderate per le quali ci senta mortificati. Vanno nella forma apparentemente più lieve, dal collega d'ufficio che ti mette le mani addosso scherzando, ridendo, ti fa apprezzamenti sessuali, ti invita sempre a mangiare fuori, poi in realtà ti guarda fisso negli occhi, ti tocca la mano, insomma capisce che ti considera come qualcosa da poter espugnare. Tu puoi dargli spago, può essere un gioco divertente, può diventare il tuo fidanzato, il tuo amante, sposartelo, farci figli, ma puoi anche te volerlo considerare soltanto come un collega d'ufficio. E se lui questo non lo capisce e va avanti, cosa succede? Ecco, questa è la prima forma. Una forma più avanzata è quella che subisce in famiglia. Oggi si parla moltissimo di usi tribali che vengono da lontano, ma è studiata anche in Italia da sociologi e da psicologi la legge del maso, che non trae certo origini da situazioni e aggregamenti molto lontani dal nostro paese, ma anzi all'interno del nostro paese, che fa della violenza sessuale, la violenza fisica sulle donne una forma di gestione del potere in famiglia, una forma quasi di punizione. Non si dice, non bisogna nominarlo, non esce al di fuori della stretta cerchia familiare, ma all'interno della famiglia si esercita una violenza sessuale, una molestia continua anche da parte di consanguini. Andando ancora avanti, poi la molestia e la violenza che subisce per strada. Quante volte vi hanno messo le mani addosso per strada, quante volte avete trovato il toccone indesiderato, quante volte ve l'hanno fatto nell'autobus. Ma andando ancora avanti, al di là dei luoghi pubblici, al di là dei dubbi che ciò possa avvenire per un vostro equivoco, perché la vittima di violenza, di molestia, si colpevolizza sempre. Ma sarà colpa mia che ho capito male? Magari quella è una persona che vuole soltanto essere espansiva, magari voleva essere gentile, magari l'ho anche provocato, magari è colpa mia che ho messo la gonna troppo corta, sono stata troppo amichevole, troppo spigliata, devo stare più attenta. E intanto quello mette le mani addosso, e intanto quello che magari ha alzato il gomito si prende le libertà. E poi entrano le donne che naturalmente dicono: io lo salverò. Gli uomini che bevono, gli uomini che vanno oltre, gli uomini che non sanno controllare i loro istinti, fanno violenza sulle loro donne. Le loro donne stanno zitte, tacciono. Guarda che i dati Istat sono abbastanza spaventosi quando viene detto che dal 2009 al 2014 il 31,5% delle donne italiane tra i 16 e i 70 anni ha subito violenza fisica o sessuale almeno una volta nel corso della propria vita. Sono 6 milioni, quasi 7 milioni di donne che hanno comunque una volta nella loro vita subito qualcosa che va in questo spettro vastissimo, che poi finisce proprio con la violenza vera e propria, con lo stupro, con la sopraffazione sessuale, che anche in questo caso molte volte non viene denunciata, viene taciuta. Perché? Perché c'è sempre un senso profondo di colpa. Visto che siamo tutti bravi a parlare di violenza, a parlare di molestie, a definire la qualità della molestia, oggi accetto telefonate soltanto da chi è stata veramente molestata, veramente violentata, che veramente ha capito quanto sia faticoso e amaro avere gli sguardi delle persone attorno e tenersi dentro questo segreto. 800 24 0024, a tra un istante. Melog, cronache meridiane. Vicino di casa, pedofilo, quando è saltata fuori la cosa, ma lei, a me su di lei hanno ordinato di tacere. Ma lei quanti anni aveva, signora? Io ne avevo 11. A 11 anni è stata molestata da un pedofilo amico, sì, di famiglia? Sì. Ma ripetutamente. Quindi ordinato di tacere, ordinato di non dire niente al nonno, ordinato tutte queste cose. Ricordate una telefonata di pochi giorni fa, una signora che per la prima volta nella sua vita, stimolata da quello che dicevamo in trasmissione, ci ha raccontato una storia terribile. Un vicino di casa, che poi era un pastore di un, diciamo, un movimento religioso, molto amico di famiglia, l'ha continuamente molestata e violentata per anni. In famiglia lo sapevano, la madre lo sapeva, dice, ma non lo dire al nonno. Il nonno era il tramite con questo personaggio importante in quella piccola comunità, quindi lei si è tenuta dentro per tutta la vita. Rispetto a quello che ho detto io, dando uno spettro vastissimo alla molestia, molestia è tutto ciò che una donna non gradisce, che tu le fai e lei non gradisce. Le donne lo fanno capire subito, immediatamente, che non gradiscono, o con un'apparente freddezza, o se no lo dicono proprio, non fa finta di non capire. Dimostro immediatamente che questo ragionamento che sto facendo, non dalla parte delle donne, assolutamente, non c'è cosa più ipocrita dell'uomo che sta dalla parte delle donne. Per noi stare dalla parte delle donne è uno sforzo culturale grosso che facciamo volentieri perché ci riteniamo esseri civilizzati. Mi scrive subito il primo ascoltatore, Nicoletti, ma vai a cagare. Toccare le mani a una collega è molestia sessuale? Sì, se le tocchi ripetutamente, se la collega dice non gradisco che tu mi metta le mani addosso. Se tu le tocchi per fare il provolone, le tocchi per trovare una fessura alla sua disponibilità e lei ti fa capire che questa fessura per te è chiusa, se le tocchi sei un molestatore. È inutile che fai il furbetto per dire una cosa è sfiorare una collega amichevolmente, dare un bacetto a una collega amichevolmente e salutare una collega con amicizia. La donna percepisce immediatamente la radice profonda di un'attenzione fisica. Se tu sfiori una donna che è un'amica, l'abbracci, lei è ben contenta, volentieri ricambia l'abbraccio e rimanete amici come prima. Se tu abbracci con intento di carpire l'intimità a una donna, la donna lo capisce, poi ci intendiamo benissimo. Angela, buongiorno. Buongiorno. Sto ascoltandola. Sì, no, io telefonavo per questo, io confermo, io sono uno tra questi il grande numero che ha menzionato prima. La mia vita è stata sempre, come dire, scandita da queste violenze, ma fin da bambina, in casa, un parente, avevo 5 anni, successivamente l'adolescenza, incontravi quegli uomini che ti aprivano gli impermeabili. Tanto sono fatte tante barzellette, ma quando lo subisci a 12 sì, anni... Sì, non è bello. Fai... C'è la giustificazione, dice, ma sai, sono dei poveretti, sono dei malati, no. Sì. Però quando ti capita, un uomo ti apre l'impermeabile, magari no. ti trovi a qualcosa addosso di suo non gradito, esatto. non è bellissimo, diciamo. Non è bellissimo anche perché poi queste cose le porti avanti, quando arrivi con i primi rapporti con i ragazzi, diventa difficoltoso, perché queste sensazioni tu te le porti dietro. Andiamo avanti nel tempo, lei dice anche da adulta. Nel tempo, e quindi lo dice, dopo nell'ambiente di lavoro. Ecco, parliamo dell'ambiente di lavoro, che è una cosa interessante. Io ho dovuto cambiare lavoro perché a un certo punto mi sono sposata, il mio matrimonio a un certo punto è finito e subito dopo sono iniziate gli attacchi da parte del datore di lavoro. Ecco, perché le più attaccate sono quelle, diciamo, o separate o single. Esatto, perché tu sei separata, hai bisogno di qualcuno. Sì, non c'è un uomo dietro le spalle che viene a spaccare esatto, la faccia a chi ti mette esatto. le mani addosso, che è molto più semplice. Certo. E quindi è un atto di vigliaccheria. Cominciano i tentativi di baciarti e quindi a un certo punto tu hai già dei tuoi problemi dalla separazione, quindi te ne vai, cambi lavoro. Ecco, ma lei non ha mai avuto il dubbio che magari all'inizio fosse un suo problema, che non capiva l'affettuosità di un collega, o è molto esplicito? No, è molto esplicito. È molto esplicito. Io ho sempre dato colpa alla mia fisicità. Perché lei è molto bella. Sì, lo sono sempre stata, fin da ragazzina, ma anche, sono sempre stata precoce, diciamo, nello sì, però sviluppo. Le posso dire, se lei è precoce, è procace, anzi, più che precoce, esatto, procace, procace. Quindi, e non è che deve andare a lavorare con il burka perché si attizza il collega, è un problema suo. Ma infatti di questo ne ho anche subito, perché ho sempre cercato di nascondere, non di valorizzare. E quindi lei, diciamo, era una calamita perché qualcuno le mettesse le mani addosso. Come reagiva? Come reagiva all'istante, quando il collega cominciava a essere un po' troppo promiscuo? Beh, no, cercavo di respingere, ovviamente, prima verbalmente, con magari non proprio una violenza verbale, ma dopo diventava violenza verbale. Poi a un certo punto ho dovuto, non era un collega, era un datore di lavoro. Ah, addirittura quindi, il capo, che è ancora peggio. Certo, ho dovuto cambiare lavoro, quindi anche. Ma lo sa che c'è una legge che permette di denunciare questa persona? Lo so, però io ho 60 anni, stiamo parlando di situazioni di 20 anni fa, mi creda che per una donna andare a raccontare alla polizia queste cose è ancora, secondo me, ancora oggi. No, lo sa perché è importante sentire queste cose, perché ci siamo improvvisamente dimenticati, siamo entrati tutti verginelle. Sembra quasi che nei nostri uffici, nelle nostre case, nei nostri luoghi pubblici girano dei grandi uomini rispettosi delle donne, che improvvisamente da lontano viene questa cosa che noi non abbiamo mai visto e conosciuto, di uomini che vanno a mettere le mani addosso alle donne. Ecco, diciamo che è la prassi per una donna su tre che qualcuno metta loro le mani addosso. Marzia, buongiorno, grazie. Sì, buongiorno. Sono quasi imbarazzata, nel senso che ripeto alcune cose già sentite, ma la storia è un po' quella. Cioè, a 10 anni ho il cuginetto più grande che ricatta: se tu non fai certe cose non sei grande, no? 10 anni, poverina, lui era così autorevole e ho accettato alcune... Era stato ben educato in famiglia, si vede. Cose ben, come dire, poco adatte. Vabbè, giocava a dottore, queste cose normali. Sì, poi arriviamo ai 18 e lì ho subito più un ricatto morale, no? Quello che ti pedina, che ti ricatta, questo qui rischiava di morire, insomma, e cercava di venire con me dicendo che stava morendo. Cioè, un malato terminale a cui lui doveva fare la grazia dell'ultimo rapporto prima che morisse. Però è stata così, è la più divertente da raccontare, ma è stata forse la più pesante da gestire, perché è durata nel tempo. E poi... Beh, non moriva mai questo, però, scusi. Questo no, poi a un certo punto appunto non moriva e è venuto fuori che forse non era così malandato. E per arrivare poi al tentativo di vera violenza mi trovavo a studiare lingue a Monaco di Baviera e uscì con un ragazzo, e lì un ragazzo tedesco, bavarese, no, era iraniano, ahimè, però sembrava un ragazzo, come dire, eravamo a studiare, eravamo in classe insieme, capito? E ci si conosceva. Pensai di andare a cena, invece arrivai in un posto dove questo qui mi ha saltato addosso e non mi ha fatto la festa solo perché avevo pantaloni troppo stretti. Beati. Ma non c'è riuscito tecnicamente, sennò non c'è riuscito tecnicamente. Vabbè, quello, ma è uno stupro vero e proprio, comunque non l'ha denunciato. No, perché ero in un contesto all'estero, così. Contesto all'estero. Comunque non l'ho fatto, soprattutto mi era andata bene e non ero... Però ecco, per dire, io che sono ora ho 49 anni... Non può dipendere dall'outfit l'esito di una violenza, però se ne renda conto, perché è andata bene perché aveva i pantaloni, sennò sarebbe andata male. No, se no mi faccia la festa. Però ecco, volevo solo testimoniare che appartengo, nonostante ecco, la mia vita sia stata piuttosto ordinata, buona famiglia, tutto quanto, conoscenza, tutta una serie di cose, rientro tra quella che per 3 volte gli hanno provato. Stiamo avendo conferma che la ricerca dell'Istat non è peregrina, e stiamo avendo conferma che comunque in maniera meliflua e sommessa anche le italiane subiscono molto spesso e molto frequentemente molestie sessuali. Silvia, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. A me è successo questo, è successo ormai, adesso ho 46 anni, quando ne avevo meno di 18, 17 più o meno, ero andata con mia madre a vedere il presepe vivente in piazza, era tutta un'atmosfera bellissima, insomma mi sentivo molto... Praticamente uno mi ha piazzato una mano sul sedere. Beh, presepe vivente è un momento bello, mistico, in cui ci si vuole bene, sì. Il miracolo della nascita, è un momento bello, no? E cosa è successo? All'improvviso mi sento questa mano piazzata ben salda sul sedere. Senza possibilità di equivoco, non è che sarà sbagliato. No, mi è venuto il dubbio, ho detto magari, siccome si era un po' pigiato, ho detto magari... Però quando ha sentito che stringeva, e cercava, non era proprio un dubbio. No, infatti. Allora, ho cercato di guardarmi intorno per capire chi fosse, perché poi si era pigiati, la situazione... Chi era? San Giuseppe, non mi dica questo. No, non ero così addosso a San Giuseppe vivente. E chi era allora? Non sono riuscita a capirlo, perché logicamente poi la persona che era dietro di me faceva la faccia di quello che proprio... Ah, non era uno dei figuranti, un pastorello, un re magio, no, era un pio assistente al presepe vivente. Esatto, solo che alle mie spalle sembravano tutti così attenti al presepe, io poi giovanissima... Tutti con lo sguardo mistico. Tutti con lo sguardo puntati in avanti. Guardavano la stella cometa, però le mani le tenevano in basso. Più mi agitavo, più questa mano... Fa il gioco loro, certo. Esatto, è meglio che non mi agito. Ho detto a mia mamma, andiamocene. E quindi è finita così? Sì, perché poi, mi sono sentita anche un po'... Non sapevo come dirlo a mia mamma, perché sapevo che lei non aveva capito niente di quello che era successo. E quindi non ha detto mai più a nessuno? No, gliel'ho detto, però la sua reazione è stata, ah sì... Che vuoi che io sia? Io sono rimasta malissimo e lei, non lo so, non ha minimizzato la cosa. E beh, poteva ammettere la mamma che nella folla dei più fedeli del presepe vivente ci fosse uno di quegli illuminati padri di famiglia con i bambinelli al seguito che osasse metterle la mano nel sedere come fanno in realtà sulle piazze di Colonia gli scatenati selvaggi. Ci fermiamo un istante, tra poco. Melog. Cronache meridiane. Sembra proprio vero che un'italiana su tre ha subito nel corso della sua vita qualcosa che attiene alla sfera della violenza sessuale, dalla molestia allo stupro. Mi scrive un frubacchione Paolo, vuol darmi lezioni sul mondo femminile. Caro Paolo, capisci molto poco. Hai una vaga idea di quanto sono le divorziate separate che le cercano questa avance, mi scrive Paolo. Paolo, innanzitutto t'assicuro, nella mia vita ormai veneranda, sono più le sposate e le fidanzate che cercano avance. Ma quelle che cercano avance, quando gli metti la mano sul sedere, ti fanno un sorriso e te la mettono anche loro da qualche altra parte. Quelle ti dicono leva quella mano, porco, sono quelle che non le gradiscono queste avance. Questa è la fondamentale differenza. Simona, buongiorno. Ciao a tutti. Niente, io sono una delle tante donne che purtroppo ha subito violenza e fra l'altro più di una volta. Dalla palpata all'avanzo un po' troppo avanzata e purtroppo arrivare anche allo stupro. E io quello per il quale chiamo oggi è un messaggio più che altro per ricordare alle donne... Lo stupro in che caso? Lo stupro è quanta terapia ho fatto perché pensavo fosse colpa mia. Ma chi è che ti ha stuprato? Un familiare, un amico, un conoscente? No, no, in questo caso per toccato fu in mezzo alla strada. No. Per lo stupro era un ragazzo in realtà che mi piaceva. E poi quando è stato il momento che si andava un po' oltre, io ho detto no e lui no, non l'ha sentito proprio, non c'è stato verso. Sono stati fatti in passato tanti processi su questi, professori universitari illuminati sul consenso della donna. È stata la chiave che ha sempre animato l'ipocrisia maschile nei processi per stupro, ma in fondo l'era consenziente, vis grata puelle, si diceva, alle donne piace che un uomo un pochino forzi la mano, ecco, ancora sono concetti molto antichi. Quindi cosa ma anche dire? L'incertezza della giustizia italiana mi ha proprio portato, ero molto giovane, ma... avevo 16 anni, ma anche con l'accordo dei genitori poi di non intraprendere azioni perché sarebbe stato un massacro da un punto di vista mediatico successivo. Quindi è una delle donne che ha conosciuto lo stupro e che in fondo ha avuto un ambiente intorno che ha tentato di minimizzare, di lasciar perdere. Vede che in realtà il quadro della sindrome del maso è estesa anche a situazioni anche più moderne, in fondo una sorta di clan familiare che dice ma ragionaci bene, in fondo tu eri quasi d'accordo, avevi ceduto fino a quel momento, in fondo lui sai l'uomo com'è fatto, lasciamo perdere, e abbiamo lasciato perdere. Marina, buongiorno. Buongiorno Gianluca, buongiorno. E dunque la mia vita purtroppo è stata costellata di tanti episodi che non vado a citare perché faccio anche fatica a parlarne, ma soprattutto l'ultimo venuto a Montpellier in Francia, abbiamo subito, io dico abbiamo perché eravamo in due e tu mi dirai come avete fatto in due a non difendervi, ma siamo stati sotto sequestro per 7 ore con un coltello alla gola. Quindi è un'aggressione vera e propria difendervi, mica siete dei corpi speciali, che dovete fare? Ti dico che avevo gli occhiali e lui mi ha... faccio fatica a parlarne ancora. Non sei obbligata ad andare avanti, se te la senti, è un servizio che stiamo facendo. Io spero così che le donne possano andare, io ho 58 anni oggi e ancora non riesco a superare nonostante le cure quello che è successo. Lui era 4 mesi che non si lavava, Gianluca, aveva 35 anni e non importa se era uno straniero perché era un marocchino, non importa, però con questo coltello io ho visto Raptus dal vivo, lui si è trasformato in un mostro e è andato in questa campagna alle 5 del pomeriggio d'agosto, noi l'avevamo conosciuto così in un bar, ci siamo fidati a farci dare un passaggio e dopo lui ha iniziato questa terribile cosa e pensavamo di morire, infatti ci siamo salutate ed è stato il primo raptus. Dopo ci ha deciso verso le 11 di portarci da qualche parte in un albergo, non so dove. Perché eravate sempre diciamo soggette a lui, nel senso che vivi. Sì, perché lui guidava con questo coltello in mano, quindi cambiava con me. Era un sequestro vero e proprio. Sequestro, sì. E poi lui ha deciso la seconda volta di rientrare secondo raptus, quindi ha rifermato la macchina di botto, ha girato, era un film, ma è un film che però purtroppo era vero, è rientrato in questo campo ed è stato di un'altra ora lì e poi è stato arrestato dai poliziotti e dai gendarmi francesi perché l'abbiamo denunciato e lui ha detto che siccome non aveva soddisfatto la prima volta le sue intenzioni perché non c'era stata l'eiaculazione è ritornato seconda volta nel campo. Vabbè, non è che c'è una giustificazione tecnica, è stato un sequestro, una violenza terribile. Esattamente. Maggiore cautela ad accettare passaggi e confidenza da sconosciuti, siano marocchini, ma ha ragione di più se sono persone che puzzano e hanno onestamente e hanno scarsa cura della loro igiene. Un uomo che non cura la propria igiene, un uomo che comunque ha abbandonato, non ha mai conosciuto alcune regole del vivere civile. E questo lo dico prendendomi tutte le responsabilità. Ma attenzione anche ai colleghi, agli illuminati maestri di pensiero, alle persone che sembrano impeccabili, che vi dicono: beh, vieni a trovare a casa, ti faccio vedere la mia collezione di stampe cinesi. Andateci se vi piace, se mettete che faccia parte del gioco il fatto che poi con lui abbiate un rapporto. Se minimamente la cosa non vi interessa, non vi riguarda, è meglio che non ci andate. Angelo, buongiorno. Sì, buongiorno Nicoletti. Sì. Chiamo per portare la mia testimonianza di un fatto che mi è accaduto stupido, banale ai miei occhi. Praticamente sono andato in una discoteca frequentata da omosessuali, sia donne che uomini, portato dalla mia compagna, perché siamo di mentalità aperta, e a un certo punto sentivo che venivo palpato sui glutei. Mi stavo toccando il culo. Esatto, non l'ho voluto dire io, comunque l'ha detto lei, vabbè. Allora, probabilmente se c'era andato... faceva parte del gioco, se l'aspettava. No, onestamente no, giuro, assolutamente. No, vabbè, mica c'era niente di male. La prima esperienza, no. Una volta nella vita deve provare questa cosa. Vabbè, ma se vai che lo sai è un conto, ma se vai che non lo sai non te l'aspetti. Allora ho detto alla mia compagna, dico, ma Giuliana, mi stanno palpando il culo qua. Secondo te come dovrei reagire? E lei si è messa a ridere. Allora mi sono messo a ridere anch'io e la Però guardi, non c'è niente da ridere. Lei è andato in un posto dove probabilmente ci sono dei codici di comportamento che fanno parte della comunità che lo frequenta. Posto in cui ci si va per incontrare, ci si va anche per avere rapporti o altro. Probabilmente la palpata di culo che ha subito faceva parte di un codice, diceva: ci stai? Sei venuto qua con la tua donna, vuoi fare delle cose strane? Non lo so. Quindi lei, diciamo, in qualche maniera era già andato in un ambiente che in sé era segnato da una sorta di codice promiscuo subliminale accettato da tutti. No, assolutamente no. No, allora siccome diciamo io sono politicamente di sinistra, per cui vabbè, ma se anche destra culo e culo non c'ha il colore, scusi, glielo mettono lo stesso. Capito, dire, certi ambienti si frequentano se sei di una certa perché quelli di destra, scusi, non vanno nei posti frequentati. Ma ufficialmente no. Ma potrei farle un elenco infinito di persone anche molto note, vabbè, scusi. Questo, anche abbastanza palesemente frequentanti, nonostante i precetti di castità che proclamano palesemente frequentanti ambienti di questo tipo. Sintesi, vabbè, lei è andato di sinistra, Ok, allora in sintesi, praticamente mi chiedevo, ma io, visto che l'ho messo a sorridere, la cosa è finita lì per quello che mi riguarda. Non è che ho avuto una reazione, diciamo, anomala rispetto invece a tutte queste reazioni. Beh, faccio anche un po' la figura del cretino, mi scusi. No, ti dicevano, ma che sei venuto a far qua? Se non vuoi nemmeno ti metti alla mano nel sedere, va a far un giro. E perché le donne invece hanno tutte queste reazioni così... Ma perché le donne non vanno in posti... Se una donna va in locale di scambisti, mi scusi, e uno gli mette le mani... No, non è un locale di scambisti. Vabbè. Dico assolutamente che fosse un locale di scambista. Vabbè, è un assoluto. Vabbè, avranno voluto assaggiare se lei era d'accordo. Lei poteva dire no, grazie, non ha detto nulla, lei è stato zitto. Non neanche ho visto. Ma poi vuole mettere la supremazia fisica che ha un uomo su una donna. Scusi, lei è bello grosso, potrà dargli uno schiaffo, un pugno al signore che gli ha toccato il sedere. A chi? Ah, il signore gli ha toccato il sedere. Ma non so, magari anche una signora, cioè va a sapere. Non... Vabbè, sarà una signora. Vabbè, lei la sta buttando in burletta, guardi, non mi va di scherzare su queste cose. Racconta un episodio salace, divertente, ma nulla a che fare con la violenza. Non è paragonabile, mi scusi, alla signora che ha parlato prima o alla donna di subire le attenzioni di un collega o di un superiore sul posto d'ufficio. Lei ci ha fatto una risata con sua moglie, non mi pare fosse una cosa drammatica. Avrei capito se ha detto sono andato in un posto, mi hanno preso, mi hanno stuprato, mi hanno riempito di botte e ho provato quello che prova una donna quando si trova in queste condizioni. Allora sì, l'avrei capito. Lei sta raccontando un episodio quasi divertente. Claudia. Sì, buongiorno. Io ora ho 34 anni e praticamente quando avevo 17 anni mi è successo che, siccome ho la passione per i cavalli, la mia mamma mi portava da un signore e praticamente questo signore ogni tanto mi faceva scendere da... Cos'è, un istruttore di attività ippiche? Sì, sì, esatto. Praticamente mi faceva scendere con la scusa che avevo queste spalle rigide. Allora mi si metteva di spalle, io ero ovviamente molto più bassa, mi massaggiava le spalle e poi piano piano... mi portava sempre la mano più in basso e praticamente si masturbava con la mia mano, come si può dire. Sì, sì, lei impietrita probabilmente da questa cosa. E io impietrita, io penso che mi sono resa conto di che cosa effettivamente stava succedendo diversi anni dopo, lì proprio non capivo, perché io non ho mai visto niente, era sempre che io ero, cioè mi stava sempre di spalle, quindi non ho avuto mai... Sì, è la tipica violenza... mellifua, subliminale e ipocrita, sì. Perché uno nemmeno ha il coraggio di dire beh adesso ti faccio questo, prende infatti la mano, è una cosa che è la tipica violenza che accade chi ha frequentato gli ambienti dei preti, è così, il prete ti prende sotto braccio, ti dice parliamo, cosa fai, improvvisamente capisci che c'è qualcosa che non va dalla cintola in giù, ma se tu dici qualcosa cade dalle nuvole, probabilmente sarebbe caduto alle nuvole anche l'infamone che le dava lezioni come sta dritta a cavallo. Questa cosa qui è andata avanti circa per forse 7-8 mesi e poi niente, per fortuna ha dovuto dar via cavalli e quindi non ci sono più andata. Quindi alla fine però anche questa cosa è una di quelle cose che rimane come una piaga nella sua coscienza, è assolutamente impossibilitata ad avere l'elaborazione con qualcuno che la possa capire, mi sembra chiaro. Marco, buongiorno. Buongiorno. La sto ascoltando. Sì, io chiamo solo per raccontare la vicenda di mia sorella che è stata violentata da un professore di un istituto alberghiero, quindi ancora minorenne, ha dovuto poi affrontare una gravidanza e un'interruzione dolorosissima di gravidanza. L'avete denunciato? Guardi, ecco, io chiamo per questo, perché davanti alla scelta di denunciare il professore o lasciar correre, perché mia sorella avrebbe sicuramente pagato le conseguenze anche della denuncia, sono stato io a prendermi in carico la responsabilità di in qualche modo farmi giustizia da solo, purtroppo capisco di dire una cosa... L'ha massacrato di botte, cosa ha fatto? Esattamente. Beh, sempre poco però, mi scusi, perché questo poi una volta passato, non è giusto farlo, È comprensibile, non è comprensibile ma non ammissibile, che... diciamola così. No, infatti non è quello che consiglio di fare. No, assolutamente no. Però questo, una volta uscito dall'ospedale, avrà ricominciato a fare da capo la stessa cosa. Io non credo, guardi. Vabbè. Almeno io mi auguro che... che sia stato sufficiente. Nello sbaglio mio, che possa essere stato sufficiente perché nessun'altra potesse subire quello che ha subito mia sorella. E non lo ha denunciato, naturalmente, il professore? No. No, perché mia sorella non se la sentiva. No, no, diciamo, il professore per le botte che ha preso. Assolutamente no, assolutamente. Se l'è tenuta, no, è stato zitto. Se l'è tenuta, è stato zitto, sì. Beh, quindi non l'ha mandato all'ospedale? Beh, guardi, adesso poi io non ho approfondito. No, perché se erano lesioni perlomeno gravi, andava all'ospedale e procedeva d'ufficio. Ma guardi, le posso dire che io mi sono finto il postino e ho chiesto di aprirmi la porta per firmare una raccomandata, e quando ho aperto la porta... Invece era un pacco. Sì, c'era il pacco. Insomma, io quello non sono un picchiatore, per cui quello che ho potuto... Vabbè, comunque non è questa la maniera, soprattutto... Non salva altre allieve di questo professore come sua sorella a subire la stessa cosa. Non è la maniera giusta, la giustizia fai da te, questo bisogna dirlo. Fermiamoci un istante, tra poco. Melog. Cronache meridiane. Non dobbiamo fare più nessuna fatica di interpretare, dobbiamo semplicemente ascoltare le persone. Abbiamo lanciato l'idea che in realtà la molestia e la violenza sessuale sia ben conosciuta dalle donne italiane, sia tanto conosciuta quanto diluita in una sorta di clima generale di sottostima di quanto veramente faccia male. E ne abbiamo qui la prova, e stanno chiamando anche degli uomini. Andrea, buongiorno. Buongiorno, io volevo raccontare un'esperienza che mi è capitata nei primi anni 90. Noi seguivamo i neocatecumenali con l'Azione Cattolica, eravamo in Calabria e solitamente andavamo a fare questi 2 o 3 giorni presso dei conventi, erano dei percorsi spirituali. Cioè eravate dei ragazzi, eravate incamminati nel cammino? Esattamente, era di pari passo, andava a braccetto con la Chiesa Cattolica. Miravate alla veste bianca? Ma no, per noi era più che è il massimo grado, diciamo. Era un'occasione di stare assieme, andare vabbè, in giro. Vabbè, sbatteva, ok. Sì. Era un'esperienza formativa. Sì. Insomma, andammo in questo convento, già appena entrati ci siamo accorti che uno dei sacerdoti, insomma, aveva delle movenze particolari. Vabbè, questo adesso non si può fare un processo alle intenzioni. Se sculettava un po' erano fatti suoi. Esattamente. Poi però dallo sculettamento qualcuno di noi è stato toccato, diciamo. No? Vabbè, il prete toccone. A tavola, la mano sulla gamba. È il prete toccone, ci sta tutto. Il prete toccone. Purtroppo ci siamo abituati ai prete toccone. Poi da lì la cosa è andata avanti finché non è arrivata... La prima sera ci sono state un po' delle avanze un po' troppo forti. La seconda sera in realtà c'è stato proprio... Insomma, la situazione è precipitata. E in che senso precipitata? Eravamo nella nostra stanza ed è arrivato uno di questi sacerdoti per dire che doveva controllare la luce, la lampadina, se funzionava. Mm. In realtà, appena entrato, ha abbracciato uno di noi. Ah, proprio così, pensando di essere irresistibile. Sì, ha fatto dei complimenti, ha fatto dei discorsi, ha provato a baciarlo. E nel momento in cui ha provato a baciarlo, questo amico si è ritratto e il prete ha insistito, diciamo, ha cercato di insistere. E com'è andata a finire allora? È andata a finire che qualcuno di noi ha alzato la voce. E il prete se n'è andato? No, non subito, ha insistito ancora. Poi qualcun altro è arrivato, c'era il nostro... Era proprio preso dal demone carnale, era satanato come una bestia. C'era un nostro responsabile che nel frattempo ha sentito ed è arrivato, quindi il prete è uscito. Però durante la serata noi comunque sentivamo ancora nel corridoio... Ho capito, l'ho fatta parlare per una semplice ragione. Eravate tutti maschi, tutti belli forti. Alla fine sto prete lo potete prendere e sbatterlo al muro. Alla fine... Il prete poteva essere facilmente distolto dal suo intento. La violenza sessuale è fatta nei confronti di una persona inerme, nei confronti magari di un ragazzino che sta solo in un collegio di preti e si sente sopraffatto dall'autorità. Quella è la violenza sessuale. Questo è un prete licenzioso che è facile metterlo a posto, uno gli dà un calcio sulle palle e dice vai a quel paese, lasciami in pace. Lei la può raccontare con serenità questa cosa. E quando uno un racconto del genere lo fa con la voce rotta dal pianto, come la signora prima, capisce che è una ferita di tipo ben diverso. Cristina Ober, buongiorno. Buongiorno. Allora, Cristina Ober mi ha mandato un messaggio su WhatsApp un istante fa, non la conosco, mi dica esattamente perché ci ha chiamato e perché partecipa a questa trasmissione. Perché credo che sia importante dirci e far sapere qualcosa di cui purtroppo non si parla mai. Sei una scrittrice che ha scritto libri sullo stupro. E ne sì, parli nelle scuole. Ho scritto anche un libro, che è un libricino per i ragazzi delle scuole superiori, infatti giro da 3 anni le scuole superiori a parlare proprio di questo, di violenza sessuale con i ragazzi e le ragazze, e appunto ho indagato quello che è lo stupro tra minorenni nel nostro paese. E allora volevo darvi solo dei dati, perché i numeri non ci piacciono ma ci dicono delle cose, che in questo momento in Italia ci sono in carico al Ministero di Giustizia minorile, i minorenni in Italia sono sotto i 21 anni, ci sono circa 950 ragazzi per reati a sfondo sessuale. Quindi Cristina, tu pensi che sia una cosa che comunque non è sradicata nelle nuove generazioni, cioè non è una cultura che ha fatto un passo avanti, è solo di facciata? Allora, io vi dico che tra questi ragazzi, su questi 950, 700 circa sono italiani, 200 sono stranieri. Allora Cristina, guarda, siccome l'argomento è importante, ecco, ci risentiamo e facciamo una puntata solo su questo, sulla violenza fra ragazzi. Guarda, perché sennò volentieri. Togliamo spazio. T'ho chiamato in maniera estemporanea. Daniela, buongiorno. Daniela. Buongiorno, parla con me, vero? Sì, sì. Daniela, sì. Allora, io devo dire che rientro nella media delle italiane che sono state molestate e l'ho vissuto come vittima forse più da bambina, anche se non sono state molestie violente, nel senso che avevo questo cugino, che io avevo 4 anni e mi ricordo poco dei miei 4 anni, però quella cosa me la ricordo. È la sindrome del maso, quelle cose che avvengono in famiglia, sembra quasi sia importante che la prima esperienza si faccia giocando a dottore, probabilmente l'abbiamo fatto tutti, ma poi come vede, ma quello non anche era questo proprio un gioco, perché il gioco del dottore lo facevamo coi coetanei. Questo era più grande. Età. Questo era un cugino molto grande, io andavo in vacanza. Grande quanto? Non so, se io avevo 4 anni, lui ne aveva 18, 17. Quindi era un uomo, era un uomo che violentava una cuginetta. Era grande, quindi, con la scusa del riposino pomeridiano. E se ne approfittava. Non l'ha mai detto in famiglia lei? Non l'ha mai detto in famiglia? Io non l'ho mai raccontato a nessuna questa cosa, nessuno nella mia vita. È la prima volta che ne parla, questa cosa l'ho vissuta come una grande vergogna. Lui mi metteva le mani dove potete immaginare. Ma no, ma questo è il tipico atteggiamento di quando un bambino subisce un'attenzione di tipo pedofilo, che è esattamente questo quadro. E quindi questa vergogna di poi doverlo rincontrare ogni estate al mare era una cosa, un macigno pesantissimo che ho sperato. Quanto ha segnato poi la sua vita affettiva questo episodio? Allora, questa cosa devo dire che io poi ho avuto la prima esperienza sessuale, purtroppo è stata uno stupro, e me ne sono resa conto solo con la maturità. Avevo 15 anni, un ragazzo che mi piaceva molto mi invita fuori e poi mi bacia e bacio, io ero contenta perché mi piaceva, e poi tutto si tramuta in uno strappo del collan, una violenza, io no, e poi quindi quello che potete immaginare. Io torno a casa piangente, mi ricompongo, non dico niente a nessuno, e nella mia mente io poi ho superato questa cosa pensando che in fondo era un ragazzo di 18 anni, che in fondo forse non aveva. Quindi una tendeva cultura a giustificarlo. Lo sa perché è importante questo? Perché sì, mi continua a dare del cialtrone e mi continua a dire che io voglio difendere gli extracomunitari, che non me ne può importare di meno, sinceramente, in questo momento è l'ultima delle mie preoccupazioni. Tenti di difenderli, ma su 3 che chiamano, 2 sono extracomunitari. No, su quelle che hanno chiamato c'è stato solo un caso di una persona che è stata violentata dal nostro amico. Certo. La maggior parte di questi casi sono casi che avvengono in famiglia, con bravi ragazzi, con sì, rispettabili padri di famiglia, compagni di scuola, bravi ragazzi. Fermo un attimo, Daniela. Anna, l'ultima è Anna, c'ho un minuto. Anna, visto che sì, chiudiamo. Buongiorno, sì. Salve. È una cosa che stavo dicendo prima. Io poi ho subito a 11 anni, era lo zio di mio papà, per cui c'erano comunque dai 30 ai 40 anni di differenza, se non di più. Ero molto giovane, portavo i calzoncini corti, per cui se mi permettevo quello era perché... L'ha raccontato in famiglia? Mai. Lo racconta adesso per la prima volta? l'ho raccontato a un'amica, a un paio di amiche, quelle le amiche del cuore, della mia famiglia non lo sa nessuno, non ho più voluto dirlo, nel senso che al momento ero molto, ma molto, diciamo, sopraffatta dalla cosa, ma soprattutto mi sentivo io in colpa, io sporca, io avevo sbagliato, io a 11 anni. Grazie Anna, ci fermiamo qui. Questa trasmissione aveva un senso, doveva dare una rappresentazione concreta di quello che sia la violenza sessuale, l'abuso e lo stupro fatta sulla pelle delle donne, non soltanto sulle teorie, non soltanto su quello che viene scritto sui giornali, non soltanto nei messaggi quelli continuano a darmi del cialtrone, perché far parlare delle donne di quello che veramente è stato per loro, sul loro corpo, sulla loro carne, l'aver subito molestia, violenza e stupro, probabilmente è un atto da cialtrone o di uomo che tradisce il patto segreto che dovrebbe legare la società dei veri maschi. A domani.